che sapete, ieri l'abbiamo forse citato anche dal giornale, che ha combinato? Ha proposto una ricetta a base di gatto alla prova del cuoco. Io non ci volevo credere ieri, poi sono andato a risentirmelo. Il giornale l'ha sottolineato, sì, ebbene sì, ha proposto una ricetta a base di gatto. Il gatto in umido, uno dei grandi piatti nel Valdarno. Si metteva il gatto 3 giorni a mollo nell'acqua del torrente. Viene fuori una delizia, le sue carnine bianche, le ho mangiate tante volte. Bufera in Rai, è stato escluso, è stato sospeso. Bigazzi lo conoscete tutto, no? Tutti con quei capelli bianchi, quella sua parlata, insomma, sempre molto graffiante. Ora dice: sono stato frainteso, scherzavo. Stavo scherzando su febbraio gattaio, su delle dicerie così popolari. Insomma, sta di fatto che il gatto in umido, Bigazzi via dalla Rai, sul Corriere, sul giornale, ma ovunque, insomma, che ha combinato, chi lo sa. Concludo sempre dalla Stampa: gli aspiranti avvocati scivolano sul patè d'animo, ebbene sì, il patè d'animo. Troppi errori di che cosa hanno analizzato gli scritti degli esami di avvocatura. Un disastro, correzione con 2 Z, abbiamo scritto con l'H, abbiamo sostanzialmente il patè d'animo invece che patema, il plurale magistratis invece del plurale maiestatis, le con l'accento non le conto neanche, un altro con l'apostrofo, questi non si contano, invece che ce n'è, c'è ne. Insomma, un disastro con quelli che chi deve valutare i temi dice: siamo esterrefatti, che per la cronaca si scrive con 2 R. Questo analizzando gli scritti degli avvocati ad esami, ebbene sì, per chiudere con un po' un sorriso, a pagina 22 della Stampa, gli aspiranti avvocati scivolano sul patè d'animo. Evviva l'ortografia e la grammatica italiana, votate il sondaggio, radio24.it, Bossi dice la sinistra ci ha mandato montagne di immigrati ed ecco i quartieri ghetto. Che ne pensate dopo GR24? Ci siamo tra un attimo, eccoci qua. Ogni tanto si impallano le macchine, ma siamo quasi pronti con GR24. Vediamo, guardo Peter, se no faccio un'altra segnalazione dalla Gazzetta dello Sport. Voglio chiudere con un altro sorriso. Stasera c'è Milan-Manchester. Il rompipallone di Gene Gnocchi, prima pagina della Gazzetta. Ferguson, il Milan dalla sua al fattore campo. Noi dalla nostra abbiamo Dida. Per favore, Dida cerca di parare almeno stasera, perché insomma, speriamo bene, almeno noi milanisti. Sono le 8 e 18 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, siamo qui per parlare di economia. Soldi e dintorni. Eccoci con Deborah Rosciani, buongiorno. No, non parlarmi della storia dei gatti perché sto inorridendo, guarda. C'è il nostro, io ho un gatto. Io pure, quindi, non ci posso pensare che il mio mimmo. Il nostro amico Giuseppe Cruciani deve averne. Arrivano mail di gente sì, vabbè, ma lui che dice: avete volta offeso chi ha i gatti? La no, vicenda del cuoco. Io non ci dei credo gatti, perché comunque no, sono anche ma magari no, delle provocazioni proprio per stemperare un po' anche l'agitazione intorno a certi argomenti. Vabbè. Andiamo avanti, non sì, parliamo guarda, di gatti. No, parliamo di auto condivise, che è meglio. Parliamo di come poter risparmiare sulla benzina, sui pedaggi autostradali e soprattutto come dare un po' di respiro alle nostre città, ai posti in cui abitiamo, quindi facciamo vivere meglio anche i nostri bambini. Allora, numerose indagini segnalano che i 2/3 delle auto in circolazione in Italia hanno una sola persona a bordo. Pensate che spreco, soprattutto quanto inquinamento. Questo ci ha portato stamattina a riparlare di nuovo del cosiddetto carpooling. Che cos'è? Adesso ve lo spieghiamo. Noi ne abbiamo parlato, i più attenti se lo ricorderanno, anche un paio di mesi fa. Ancora una volta Soldi e Dintorni, una simpatica imprenditrice della provincia di Brescia ci descriveva come, grazie anche al sostegno delle amministrazioni locali, si sperimentava il viaggio in auto condiviso, ci piace chiamarlo così, per i lavoratori di una stessa zona industriale. Altri esempi si trovano nelle province di Como, Varese e Milano, Milano, anche Autostrade per l'Italia ha attivato questo servizio per il pagamento scontato del casello sulla A8 e sulla A9. Allora, oggi, a distanza di qualche settimana, parliamo invece dell'apertura del primo portale italiano interamente dedicato al carpooling, che vuole ricalcare il modello di analoghi e fortunati siti tedeschi o olandesi. In Europa, infatti, questo è un modello molto utilizzato. Avrà lo stesso successo anche in Italia, lo speriamo. Intanto io ringrazio di essere con noi questa mattina Olivier Bremer. Buongiorno Olivier. Buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori. Io gli do del tu perché Olivier è uno studente, abbiamo anche un fastidioso ritorno audio, adesso speriamo appunto di sistemare il collegamento. Quanti anni hai Olivier? 25. Quindi al di là della validità dell'iniziativa, che adesso raccontiamo come funziona, ci piace anche soffermarci sul fatto che ci sono tante belle menti brillanti nel nostro paese, anche se in realtà quella di Olivier è praticamente assolutamente internazionale, che non appena hanno delle belle idee appunto da poter così in qualche maniera sperimentare, non ci pensano due volte, si danno da fare, e quindi in sostanza quando ci sono anche queste giovani forze che hanno questa mentalità imprenditoriale molto interessante, ci piace appunto raccontarla e mettere a conoscenza tutti i nostri ascoltatori di queste belle esperienze. Allora, Olivier, insieme ad un tuo collega, Federico Amoni, avete fondato il portale che si chiama postoinauto.it, quindi siccome tu sei un tedesco italiano, il sito è italiano, quindi tutti quelli a cui interessa li tranquillizziamo. Come funziona questo, come dire, portale di informazioni per chi vuole condividere l'auto, Olivier? Allora, il sito, il funzionamento del sito è estremamente semplice, basta collegarsi, registrarsi e chi ha dei posti liberi nella propria auto, tramite questo sito può metterli a disposizione di altre persone che vogliono effettuare lo stesso tragitto. L'operazione è semplicissima, ecco, basta inserire località di partenza, località di arrivo, posti disponibili e fissare una tariffa, un prezzo che insomma si chiede a ciascuno dei passeggeri. I vantaggi quindi sono ovvi per tutti, sia per l'autista che risparmia sulle spese di viaggio perché appunto riceve dai passeggeri un contributo, sia però anche per i passeggeri perché loro risparmiano sulle spese di viaggio rispetto ad altri mezzi che potrebbero utilizzare. Ecco, volevo solo specificare Olivier che questa iniziativa ha una filosofia abbastanza precisa, non è che adesso come dire una persona che deve raggiungere una località per andare al lavoro si come dire organizza condividendo l'auto per fare un secondo lavoro, quindi fare l'autista di altri, è solo una condivisione di spese con una filosofia, un messaggio ben preciso, no? Sì, sì, assolutamente, cioè chi ha dei posti liberi li mette a disposizione, non serve creare altri viaggi in più, semplicemente c'è un vantaggio per tutti perché ecco io questo viaggio lo faccio comunque, però ho dei posti liberi, allora perché non vendere tra virgolette questi posti a delle persone che vorrebbero utilizzarli e che magari hanno difficoltà logistiche a raggiungere quella medesima località. Olivier, noi abbiamo parlato dell'iniziativa della provincia di Brescia, di quella di Como, di Varese, di Autostrade per l'Italia, la vostra in che cosa si differenzia? Perché abbiamo visto che le altre per esempio a volte si sono organizzate con il supporto delle amministrazioni locali, voi? Sì, noi allora, il nostro innanzitutto è un sito operativo a livello nazionale e quindi si possono inserire viaggi sia magari all'interno di una stessa provincia, sia però anche tra diverse città. E poi siamo un sito indipendente, quindi non ci appoggiamo, almeno per il momento, alle amministrazioni locali, perché vogliamo essere un sito creato da utenti per altri utenti. Volevo chiederti come valutate anche, come dire, la serietà, l'affidabilità dei vostri soci, tra virgolette, di coloro che inseriscono le informazioni sul vostro sito, perché magari dicono io sono un automobilista che fa ogni giorno questo tragitto e voglio mettere a disposizione le mie auto. Può anche capitare, insomma, che ci sia qualche pazzo, magari, che così solo per curiosità vuole disturbare il sito. Non lo so, insomma, come fate anche un controllo su questo? Sì, per questo abbiamo introdotto lo strumento del feedback. Cioè che funziona in questo modo, tutti quelli che offrono un passaggio oppure prendono un passaggio su postoinauto.it possono lasciare sul proprio autista o sui propri passeggeri un commento che verrà poi letto da tutti gli altri utenti. Se un autista offre un passaggio, riceve delle prenotazioni e poi non si presenta, chiaramente queste persone che rimangono lì ad aspettarlo gli lasceranno dei commenti negativi che poi potranno essere letti da tutti. Però visto che ci sono anche altre informazioni che per esempio devono essere date a proposito, come dire, del conducente prescelto come guida, se non sbaglio, c'è anche questo, no? La sua puntualità e poi le condizioni di sicurezza dell'automobile utilizzata. Sì, assolutamente, questo è per noi molto importante, perché se qualcuno mette a disposizione la propria auto a disposizione di altri, i passeggeri ovviamente vogliono essere sicuri che la macchina sia in buone condizioni. Olivier, naturalmente per tutte le persone che mettono informazioni personali, e quindi per esempio l'automobilista che può segnalare e vuole segnalare che tutti i giorni fa un certo tragitto e quindi raccoglie anche le disponibilità e le offerte di chi evidentemente vuole condividere l'auto, paga qualcosa per iscriversi al sito? Assolutamente no, il sito è completamente gratuito. E voi come vi sostenete? Per il momento è finanziato da noi, però ecco, contiamo di ricevere magari sia degli introiti pubblicitari, sia poi anche magari delle donazioni di persone che risparmiando così tanto sull'utilizzo della propria auto magari vogliono sostenerci in qualche modo per poter continuare con questa iniziativa. Da quanto siete partiti, Olivier? Siamo partiti giovedì. Quindi è freschissima l'esperienza, per cui vediamo se stamattina riusciamo a fare anche un bel picco di contatti sul vostro sito di curiosi per capire appunto come funziona il vostro lavoro. Esatto, Olivier, lo avete sentito, ho una telefonata un pochino disturbata perché lo stiamo chiamando in Germania. Olivier studia in Germania in questo momento, però ha origini tedesche, ma è vissuto tanto in Italia, un nome alla francese, però so che tu conosci molto il modello del carpooling in Germania. Lì come funziona? Lì, io infatti l'ho conosciuto lì e la mia prima reazione è stata: perché non fare una cosa del genere anche in Italia? Perché per gli studenti tedeschi il carpooling è il mezzo di trasporto preferito. Se io devo andare in un'altra città, io innanzitutto controllo in un sito tedesco appunto dedicato al carpooling, che in Germania ha oltre 1 milione di iscritti, controllo subito se c'è qualche autista che offre appunto questo tipo di viaggio, e devo dire che finora non ho mai avuto problemi a trovare un passaggio. Quindi, come dire, è un meccanismo che funziona e che garantisce anche tutti quegli aspetti relativi, come dire, anche alle così incertezze che possono essere legate anche al tipo di conducente che si trova. Quindi siete molto ben strutturati, adesso vediamo come partite. Io direi di ricordare anche il sito, Olivier. Sì, www.postoinauto.it. Quanto si risparmia utilizzando il carpooling in 5 secondi, Olivier? Sì, anche fino al 75%, perché da una persona in auto si passa a 4, quindi è un risparmio notevole. Infatti, se si è in 4 addirittura il costo della benzina può scendere a 10 centesimi di euro al chilometro. In bocca al lupo, ci sentiamo prossimamente, così ci racconti come va il modello italiano del carpooling. Grazie Olivier. Grazie mille. A presto. Buona giornata. Alessandro. Eccoci qua, Deborah. Allora. Partito ieri il super collocamento dell'obbligazione Enel, spieghiamo come funziona perché è un po' complicata, ce ne sono due tipi e quindi vediamo come va questo prodotto fra i risparmiatori. Sono le 8:33 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. E allora, le notizie in primo piano: si allarga l'inchiesta sulla protezione civile che ha coinvolto anche il suo capo Bertolaso. Tra gli indagati ora c'è anche il coordinatore del PDL, Denis Verdini, l'ipotesi è di corruzione. Intanto il governo rinuncia a trasformare la protezione civile in una SPA. Chi ruba oggi non lo fa per il partito, ma perché è un ladro. Lo sostiene il presidente della Camera Fini, che in un'intervista Riformista aggiunge: questa non è una consolazione, anzi è un aggravante. Intanto per la Corte dei Conti la corruzione costa allo Stato 69 milioni di euro l'anno. Per il calcio stasera torna la Champions League con gli ottavi di finale. In campo la prima squadra italiana, il Milan, che ospita a San Siro il Manchester United. Mentre per le Olimpiadi di Vancouver, terza medaglia azzurra è Piero Piller-Kotter, che ha conquistato l'argento nella 15 km di fondo. Allora, le 8:34 minuti, parliamo di quello che è successo a Milano. Nel nostro sondaggio via Padova, quello che è definito oggi da Pane Bianco come il rischio di quartiere ghetto. Nel nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero. Gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Il sondaggio lo facciamo sulle parole di Umberto Bossi, che ora ascolteremo. Ha detto: la sinistra ha fatto arrivare una montagna di immigrati, questi risultati. Oh, molti già ci fanno notare, ma come? Come fanno notare anche per esempio da sinistra, negli ultimi 10 anni il centrodestra ha governato molto di più, la legge che regola i flussi migratori è la legge Bossi-Fini. Ma allora è colpa della sinistra? Ma sentiamo le parole di Umberto Bossi e poi ne discutiamo. Criticare per criticare, anch'io critico per sana la sinistra, che ha fatto arrivare montagne di gente senza preoccuparsi, se il lavoro c'era, se la casa c'era, poi dopo la gente se potessi li raduni in un quartiere, diventa un quartiere ghetto. Sì. Diventa la preda di tutti i malumori poi. E poi vengono fuori queste cose. Se ha ragione, Bersani vincerà le elezioni. Se ha torto, le perderà. Insomma, se ha ragione Bersani, le vincerà le elezioni, se ha torto perderà. Comunque Bossi dice è la sinistra che ha fatto arrivare una montagna di immigrati e ora ci sono i quartieri ghetto, ora succedono poi queste cose. Che ne pensate? Devo dire che state votando in molti, vi siete divisi, il 55% di voi dice sì, siamo d'accordo con Bossi, 54% in questo momento. Voglio intanto salutare Matteo Salvini, buongiorno, della buongiorno Lega Nord, eurodeputato, ma anche consigliere comunale a Milano, così come saluto Giuseppe Civati del Partito Democratico. Buongiorno Civati. Buongiorno. Il consigliere regionale della Lombardia. Salvini, partirei da lei perché Bossi l'ha anche un po' sconfessata, qualcuno dice ha fatto il pompiere, ma che rastrellamenti, lei che ha detto andiamo a prenderli casa per casa. No, io ho chiesto l'applicazione della legge, ovvero sia le verifiche di tutte le residenze che vengono, devono essere fatte dai comuni. Un sindaco non può, ma deve verificare chi vive nella sua città, quindi andare a verificare se serve casa per casa, via per via, pianerottolo per pianerottolo, chi è residente, se ha il diritto di esserlo, in che condizioni si vive, che lavoro si fa, italiani e stranieri. Quindi suonava un po' come un rastrellamento. Il rastrellamento è un'invenzione di Repubblica e quindi Bossi ha smentito la Repubblica. La verifica della regolarità delle residenze è un dovere, non è un diritto, perché se abitano 22 persone, come da me constatato e segnalato a chi di competenza, in 30 metri quadrati è un problema per loro ed è un problema per chi vive vicino a loro. Tra l'altro adesso vediamo, perché lei ha proposto anche qualcosa sulle case, ma le chiedo, così poi Civati le replicherà, ma com'è che insomma il centrodestra governa da più anni del centrosinistra? La legge Bossi-Fini porta il nome proprio di Bossi. A Milano il governo insomma di centrodestra è stato anche della Lega come sindaco in passato, e la colpa però sono le montagne di immigrati fatte arrivare dalla sinistra. Salvini. Guardi, a me onestamente interessa poco di chi è la colpa, i dati stanno a raccontarci che a metà degli anni 90 e a fine anni 90 c'è stata non un'immigrazione ma un'invasione di massa. La legge Bossi-Fini ha cercato e cerca tuttora di arginare questo fenomeno, così come il ministro Maroni con il reato di immigrazione clandestina e mettendo il numero zero davanti agli ingressi regolari cerca di arginare questo fenomeno. Certo è che un certo modo di pensare del avanti tutti, c'è posto per tutti, anche se non hanno una casa, un lavoro, prima o poi la sistemazione la si trova, un certo modo di pensare, di legiferare e di non applicare la legge, perché ancora oggi, mentre stiamo parlando questo martedì mattina, la legge Bossi-Fini da alcuni tribunali non è applicata, così come il reato di immigrazione clandestina da alcuni giudici non è applicato. Quindi stiamo cercando di rimediare a quello che è un buonismo, un modo di pensare che porta dei danni anche per gli immigrati stessi. Allora Civati, lei come la vede, vista dal Partito Democratico? Insomma, Bersani ha detto proprio questa cosa, ma come, governate voi da anni e la colpa è nostra? È semplicemente una boutade quella di Bossi, oppure come ha detto Salvini c'è stata un'ondata di buonismo sostanzialmente che ha portato a questa situazione? Ma guardi, io non lo so, perché dovremmo attribuire la colpa a Prodi, alla sinistra, di aver portato gli immigrati in tutti i paesi d'Europa, diciamo, sarebbe una cosa un po' curiosa, visto che in altri paesi gli immigrati sono arrivati anche in numero maggiore rispetto a quanto non sia accaduto all'Italia, per cui mi sembra veramente una strumentalizzazione da quattro soldi. E lo stesso ministro Maroni, lo stesso Bossi, in qualche modo, smentendo parzialmente le parole di Salvini dell'altro giorno, affermano un quadro un po' diverso. Io credo che la politica, la verità sia un'altra, che la politica sia stata al di sotto delle aspettative, che non si sia trovata ancora una modalità per programmare l'immigrazione, per stabilire i limiti e le opportunità, che non si sia trovata una formula. E forse per questo mi chiedo se non sia il caso di aprire un dibattito in Parlamento, che mi pare la sede più idonea, anche rispetto agli enti locali che hanno strumenti molto più parziali, una riflessione che possa davvero dare al Paese una nuova lettura di questo fenomeno che finora è mancata. Io non do la colpa agli altri, perché non mi pare che sia utile, che sia un buon modo di fare politica. Non ho mai affermato le cose che Salvini attribuisce a una certa sinistra, mi chiedo quali siano gli strumenti migliori per consentire ad un numero di persone limitato, no? Possibile, diciamo, un numero possibile di venire in Italia a lavorare. Lo chiedo io, ma lo chiedono anche gli industriali, però, lo chiede il sistema delle imprese. Non ha detto ha detto Salvini che c'è, ad esempio, su questo tema dell'immigrazione clandestina, una tolleranza che oggi, tra l'altro, Angelo Panebianco appunto sottolinea sul Corriere della Sera nell'editoriale dal titolo "Come si difende un quartiere". Scrive Panebianco appunto che combattere l'immigrazione clandestina è un primo punto, ma dice è difficile se tanti operatori, religiosi, settori di opinione pubblica mostrano un'indulgenza che sfiora la complicità verso il fenomeno. Secondo lei Civati c'è, soprattutto nei settori della sinistra, lei dice non della mia sinistra, ma in qualche settore, questa complicità, questo senso di buonismo denunciato da Salvini e che crea dei problemi nei confronti della clandestinità? Ma guardi, c'è del buonismo come c'è del cattivismo e di rastrellamento, io ne sento parlare spesso, forse non lo dice Salvini ma tanti altri imbecilli come li ha chiamati lui dicono così, ci sono posizioni diverse, nel fondo di Panebianco però c'è una nota che non condivido moltissimo perché mi sembra un impianto un po' antico come sempre capita, spesso capita a Panebianco, c'è una nota di grande interesse invece, quando Panebianco dice che sono gli immigrati i primi a lamentarsi di un certo degrado, allora mi chiedo perché a Milano non esiste una sede politica in cui italiani e stranieri si confrontino su questi temi, in cui ci sia una rappresentanza delle comunità, in cui ci sia la possibilità di discutere al di là delle differenze della provenienza, ma no, nella situazione data delle cose che succedono. Ecco, io credo che questo sarebbe uno straordinario passo avanti e un momento importante per anche la storia della città di Milano degli ultimi anni. Di confronto. Tanto vi sta ascoltando, voglio salutarlo, Mahmoud Asfa, buongiorno. Buongiorno. Spero di aver pronunciato sì, bene il suo nome. È presidente della Casa della Cultura Islamica di Via Padova. Tra l'altro insignito dell'Ambrogino d'Oro quest'anno. Sì. Senta, lì qualcuno dice, è l'esempio Via Padova di come l'integrazione non sia possibile, di come l'integrazione sia fallita laddove il numero, la concentrazione di stranieri supera una certa soglia. È davvero possibile un'integrazione secondo lei? Certo è possibile l'integrazione, non è vero che è fallita l'integrazione in Via Padova. Via Padova purtroppo è stato abbandonato dagli ultimi anni dalla parte dell'amministrazione del Comune di Milano. Una via che potrebbe essere modello della pacifica convivenza e le diversità delle etnie è un arricchimento per la città di Milano. Purtroppo negli ultimi anni è mancato diciamo, un progetto complessivo per Via Padova, perché i problemi in Via Padova sono sempre stati prima dell'arrivo degli immigrati. Ricordiamo anche negli anni 70-80 Via Arqua era un centro di problemi, una traversa di Via Padova. Sì. Da parte degli immigrati che arrivavano dal sud, però il Comune di Milano sempre è intervenuto. Senta, perché le dice istituzioni? Perché adesso vabbè ci ascoltano in tutta Italia, adesso via Arqua, via Padova, io le conosco ma altri no. Il concetto è, voglio dire, c'è una concentrazione anche di tasso di criminalità in via Padova, è inutile, è innegabile questo, che lei sa e che non negherà. Perché dice le istituzioni, voglio dire, non è dagli immigrati questa criminalità, ma anche dagli italiani, non solo dagli immigrati, solo che veramente un progetto complessivo in via Padova non esiste da molti anni. C'è una concentrazione da parte degli immigrati, ma non solo in via Padova, andiamo a San Siro, andiamo a Piazzale Corvetto, lì c'è una concentrazione ancora, sì, forse certo, di più di via Padova, solo che questa via è stata abbandonata, non ci sono progetti, non c'è un progetto complessivo da parte del comune, non ci sono, anche se ci sono dei progetti singoli finanziati o magari appoggiati dal comune, non c'è un collegamento tra questi. Vediamo, colpa delle istituzioni, le dice Salvini, le istituzioni hanno abbandonato quella poveri zona. Noi. Perché poveri noi, dice poveri Salvini. Poveri noi. Vabbè, adesso è colpa delle istituzioni, se c'è un quartiere in mano alle gang di sudamericani e nordafricani è colpa delle istituzioni. Adesso va bene sorridere, però non mi sembra il caso di esagerare. È evidente che in alcuni quartieri di Milano gli italiani hanno paura. Perché? Non perché è colpa delle istituzioni, ma perché c'è un'eccessiva concentrazione di stranieri che, come scrive Panebianco, non sulla Padania ma sul Corriere della Sera, se concentrati in alcuni quartieri, si impossessano di questi quartieri e decidono qual è la legge che vige in questi quartieri, alla faccia del comune, della provincia, della regione e di Gesù Bambino. Quindi nascondersi dietro un dito del fatto che in via Padova, così come in Corso Lodi, piuttosto che in piazza Selinunte, il problema sia massimamente dettato dalla presenza regolare o irregolare di immigrazione e nascondersi dietro. Perché dice regolare e irregolare? Lo stesso Panebianco dice, anche se Civati contesta questa cosa, a meno il passo successivo che manca è che proprio sono gli immigrati irregolari che hanno detto mandateli via i clandestini, perché noi lavoriamo regolarmente e questi ci procurano dei danni. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il sondaggio di Radio 24. Allora, ci chiediamo se le parole di Umberto Bossi, la sinistra ha portato una montagna di immigrati, questo poi è il problema, siete d'accordo oppure no? Radio24.it per votare, vediamo se Luca da Como che ne pensa. Luca? Sì, buongiorno. Che dice? Senta, io faccio un semplice calcolo, senza polemiche per carità, però dal 1994, inizio della cosiddetta Seconda Repubblica, mi sembra che ora, con un po' di approssimazione, il centrodestra governi circa per il 70% degli anni. Sì, vabbè, più o meno è quello. Dal 2001, visto che Salvini ha detto che da fine anni 90 c'è stata questa grande massa di questa invasione di immigrati dovuta, tra le righe, al fatto che il centrosinistra era al governo, mi chiedo, visto che dal 2001 governa il centrodestra e governa la Lega praticamente in maniera ininterrotta, si può dire, tranne quella parentesi di neanche due anni. Mm. Cosa ha fatto il centrodestra? O non sa fare le leggi o le fa e non le sa fare. Ma dice Salvini, adesso la riassumo io perché l'ha già detto, la legge c'è ma viene disapplicata anche da magistrati, insomma questa è la posizione della Lega. Comunque lei dice perché, che cosa fanno, insomma. Grazie Luca, voglio andare a Forlì da Giorgio, buongiorno. Buongiorno, che buongiorno dice? A lei. Dica, senta, dica. Io sono pienamente d'accordo con Bossi di quello che dice, perché io le spiego così proprio in due battute. Io sono un uomo di strada, sono un agente di commercio e giro qui per la Romagna, qui faccio le piazze, Ferrara, sì. È pieno di questi immigrati che ciondolano per le strade, chi chiede, chi ti vuole lavare i vetri, chi ti chiede c'è un euro, due euro. E vabbè, ma che posizione è? Cioè, quindi dice sono troppi. Sono troppi, cioè li hanno fatti venire qua. Io sono convinto. Chi li ha fatti venire? Chi la sinistra, la sinistra, per i voti, la sinistra. Ma se non votano? Gli ha promesso, ma se non voteranno, prima o poi voteranno, perché è il loro serbatoio dei voti. Ah, va bene, Giorgio, ha sentito Civati, insomma, è un'architettura quasi strategica di lunghissima distanza, di lunghissima visione politica che ha avuto la sinistra, no? Secondo con tutti i voti che abbiamo perso sarebbe stato un calcolo sbagliato, diciamo, lo dico con una battuta. Faccio tra l'altro notare che i dati di Regione Lombardia e dell'ISMU dicono che gli stranieri, se andassero a votare, voterebbero a sinistra e anche a destra, soprattutto i neocomunitari, i rumeni, i cinesi. Insomma, ci sono delle propensioni al voto destrorso di una larga fetta della popolazione immigrata, per cui è un argomento che non ha alcun senso. Però io non voglio veramente metterla, poi il vostro sondaggio invece è interessante, ma non voglio metterla sul piano del dare la colpa agli altri. Vorrei capire davvero cosa si può fare ora, perché credo che i cittadini a Milano e in Lombardia, ma in tutta Italia, chiedano delle risposte e anche delle soluzioni. Ha sentito Asfa dire le istituzioni hanno fallito. Salvini si è molto adombrato. Lei che dice? Ha ragione in qualche modo Mahmoud Asfa? Io credo che le istituzioni abbiano un compito, che è quello di dare delle risposte. Allora, ci sono tante politiche che si possono fare. Io citavo quello di una sede di confronto anche amministrativo con le comunità, con gli italiani ovviamente prima di tutto, i residenti di via Padova e non solo, ma anche con gli stranieri. La possibilità che ci siano, per esempio, strumenti che in passato si utilizzavano, i contratti di quartiere, i finanziamenti mirati anche regionali verso le zone più critiche di insediamento popolare, la possibilità che ci sia, insomma, un'azione, una visibilità delle istituzioni anche, che non sia solo quella delle forze dell'ordine, dei vigili, che pure sono importanti. Ecco, in questo senso io credo che la richiesta